diavoletti elettrici. Molto, molto lontano da noi, nella sperduta città di Non Importa, vivevano i diavoletti elettrici, Lampo, Barlume e Barbaglio. Erano stati scacciati dal loro pianeta dal mostro elettrico e per caso erano atterrati a Non Importa. «Potete rimanere qui quanto volete», disse il sindaco. I diavoletti, per dimostrare la loro gratitudine, decisero di aiutare la popolazione di Non Importa. Misero in azione il loro splendido robot Computatrix, che produceva elettricità giorno e notte, ed inventarono un mucchio di aggeggi che rendevano più facile la vita a Non Importa. Un pomeriggio Computatrix stava ronzando pacificamente e Lampo si esercitava con la sua spada elettrica. Barlume e Barbaglio erano indaffaratissimi intorno alla loro ultima invenzione, una macchinetta elettrica per pulire i vetri. All'improvviso si udì un terribile crash. Un lampo blu li accecò e un'orribile creatura irruppe nella stanza. Barlume e Barbaglio erano paralizzati dalla paura e Lampo non riuscì ad usare la sua spada elettrica. Era il loro vecchio nemico, il mostro elettrico. Con i suoi tentacoli scovò in breve Computatrix, gli strappò i fili e se lo portò via in cortocircuito dalla paura. Immediatamente l'elettricità venne a mancare in tutta la città. Il forno del panettiere si freddò, il falegname Bruno non poté più usare il trapano e Piero, il droghiere, osservava sgomento i chili di burro liquefatto che colavano dal suo frigorifero. Tutti corsero alla casa elettrica e il sindaco parlò severamente ai diavoletti. «Dovete trovare subito Computatrix, non possiamo più vivere a Non Importa senza elettricità. E dite subito a quel mostro elettrico di non dare più noia. È la prima volta che una cosa ci importa e non abbiamo intenzione di rinunciarci». «Ma il mostro elettrico è così potente!» singhiozzò Barlume. «Ci ingoierà tutti!» gemette Barbaglio. «Smettetela voi due!» intervenne Lampo. «Lasciatemi riflettere!» «Sì, abbiamo bisogno di un carro dei pompieri e del burro liquefatto di Piero!» Il giorno seguente, i diavoletti guidarono il loro carro dei pompieri nella foresta che circondava la città. Bestie feroci ruggivano intorno a loro. «Niente paura», disse Lampo, vedendo che i suoi amici si stringevano l'un l'altro per farsi coraggio. Improvvisamente, due draghetti ossuti sbucarono dai cespugli ringhiando furiosamente. Lampo sfoderò la spada e affrontò le bestie menando pendenti da tutte le parti. Dopo una lunga lotta, le bestie scapparono ululando e sputacchiando rabbiose. Infine, quasi al limitare della foresta, arrivarono davanti a un grande fossato. Dall'altra parte c'era una grotta illuminata da un misterioso bagliore. Barlume si sentì venir meno dalla paura. «Deve essere questo il covo del mostro», sussurrò Lampo. «Non abbiate paura. Forza, Barbaglio, sai cosa devi fare!» Barlume aiutò Lampo a srotolare il grosso tubo antincendio con le ginocchia tremanti. Barbaglio prese due volte la rincorsa e alla terza saltò il fossato e atterrò proprio davanti al covo del mostro. Si schiarì la gola e poi urlò: «Ya! Buia! Stupido vecchio mostro! Stupido zuccone a batteria!» Con uno strido di furia, il mostro balzò fuori dal covo e si precipitò su Barbaglio, che se la dette a gambe veloce come il vento. Con un gran balzo superò il fossato, mentre Lampo gli gridava: «Apri il bocchettone del tubo!» Si sentì un potente sciacquio e un denso getto di burro liquefatto schizzò fuori, inondando il mostro che scivolò nel fossato e rimase lì, senza muoversi. Trionfalmente, i diavoletti liberarono Computatrix dal covo del mostro. Dal fossato si udì uno strano rumore. Era il mostro che piangeva. «Buba, bua, ora rimarrò tutto solo!» La bestia aveva un aspetto così triste e patetico che i diavoletti provarono pietà per lui. «Non avresti dovuto proprio rubarci il robot, sai?» disse Lampo. «Lo so», singhiozzò, «ma sono così solo. Tutti hanno paura del mostro elettrico. Io volevo solo che Computatrix mi facesse compagnia». «Ah!» sospirò Barlume con gli occhi pieni di lacrime. «Dunque», fece Barbaglio dopo aver riflettuto, «anche tu produci elettricità. Perché non torni a Non Importa con noi? Allora potresti stare sempre insieme a Computatrix». Il mostro era così felice che tutti i suoi cavi cominciarono a ronzare. Ora non sarebbe stato più solo. E anche i diavoletti erano felici, naturalmente. Il mostro elettrico avrebbe aiutato Computatrix e ci sarebbe stato molto meno lavoro per loro.